condivisione dei fatti. Sempre così li ho avuti il 48, e il mio è quello a me mi è costato 500 euro, ma sono di tutti quell'apparato lì a me. Però devi vedere come è fatto quell'apparato, capito? Io non ho mai avuto apparati senza regolazione dei vatti. Su tutti gli apparati io ho fatto mettere sempre il potenziometro dei vatti esternamente, capito? Ci sono molti che fanno le modifiche che non riescono a metterglielo, invece che ci sono dei centri, quelli bravi sul conferente, che li fanno questi lavori, li fanno e li fanno bene. Ti sto dicendo io, il mio arrivava a 30 watt, l'ho fatto abbassare io e me l'ha abbassato a 27 watt il 48 mio, capito? Però c'è un regolatore, il massimo tu muovi arriva a 27 quando giri dove c'è lo squarcio, no? E almeno c'hai neanche un watt giusto, un watt e mezzo, però quel watt e mezzo c'è una radio micidiale, perché io non metto 2 watt, io lo compro 2 watt, io la mattina parlo un palchetto, quello che faceva il bucaglio 48, con 2 watt, è solo che mi sento io con 2 watt, perché questi 2 watt salgono oltre 10-12 watt in arriva, quando vuoi dire, capito? C'è un picchio allucinante che proprio allucinante, e vedete proprio se tu gli attacchi un strumento ci sale da 1,5 a 12 watt, non è niente quando sei regolato. Capito, già va bene, meglio così. Io gli apparecchi sono tutti modificati a 15, quelli lì, e le volte avete distanza 8, forse 19, al massimo c'è 15 watt, più di quello non mi dà, e vanno bene tutti e tre, ma mai avuto nessun problema. Poi se lo vuoi aumentare, metto la sfera, rende uno 150, ce l'ho la sfera qua, se non sai, metto la sfera rende baratino. Io ho 50 watt in uscita, ma non me ne posso usare, e va bene così. Caparoglio, palchetti sì, come più palchetto? Palchetto ogni tanto sparisce, va a mangiare, mi ricordo che mi sono fatto il tone. Caparoglio, là. Ah, anche chi pure, questo è normale l'apparato, è 48 normalissimo. Sì, io ti sento bene. Sai che questo male c'è come baracchino, questo qui, questo farà 15, fa 4, guarda un po' 4 watt. Ho capito, cosa l'hai messo adesso? Ho capito, dimmi. Quanti watt sei adesso? 4, 1, 2, 3, 4, sono 4 watt, adesso in questo momento, adesso sono 15 watt di tutti i turni. Si è aumentato di più, potenza senza la delta 4 è aumentato di più, ne cosa hai fatto? Così sono 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così sono 4 watt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. C'è un abisso da 4 watt a 15 watt, 4 watt è una radio che ti fa che i timpani, è il segnale uguale, perché i picchi arrivano la stessa cosa a notte. La radio aumenta di una cosa impressionante, a 4 watt sei molto più forte di 15, e il segnale è lo stesso, capito? La puntata bianca no, è appena di meno, ma come nuvoli sale di più i picchi, la radio è il doppio di potenza, superiore, cambia completamente. Allora lascio così, lo lascio, se va bene lo stesso. Per i picchi del baracchino dello Smith, quello che salgono parecchio, devo dire c'è più radio. Sì, sali da 5 a 9 i picchi, capito? Da 5 a 9 una radio fortissima, vedi da 15 nuovamente e ti dico il segnale. Come si chiama questa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, per il segnale su questa parte, io sto controllando questa parte, una arrivi a 6, ha aumentato tutto a 6 e a malapena arrivi a 9, perché i picchi se tu le controlli non è che salgono molto, sale appena appena, sale di più quando non sono messi a 4 parti, capito? Sale molto di più. Ho capito, brava, siamo a già toccato perché l'ho comprato così. Infatti l'ho già così. Ah, perfetto, perfetto. Abbiamo tolto l'eco e il bip. Parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla. completa del tutto, è una radiolattazione questa. Ah, guarda, guarda. Oh, per Paolo. Io anche la mia, era per Paolo. Sì, già detto anche carabinieri, la gran forza. Si chiama Panino questo, si chiama la morra soccorso a due carabinieri perché era in palle. Dopo la settimana abbiamo andato a vedere come doveva essere passato tutto, la torina, direttiva, lineare, tutto quanto. Ma vicino a dentro su a casa R38, questo è stato utilizzato di tempo per fare una casa. E allora era visto questa eroina, proprio una cosa impressionante. Avevamo tutti i canti confessi, che c'erano addirittura i denti con la cacciatina e i canali, di una di tutto. Da canale all'altro c'erano ormai conti di splatte, potrei essere portati, c'erano di tutto, uno si mantengava con l'altro, perché capito, è giusto che se la casa te lo va per quello che è l'apparato, bisogna usarlo per quello che è, capito? Thank you. Gigi, sono Gigi Bolzano, lavoro qua dopo io, e questo è il capo del pastore, capì? Sì, io metto l'antenna della... avanza con la rovetta tale che non si era davanti, è molto più forte di mettere la roba che la mettiamo prima, perché il punto, non lo so, il punto più potente è quello. Io me la facevo quando ho cominciato la come si chiama, la superventibus nel caminetto. C'era un abisso di ricezione e trasmissione, c'era veramente una pizzeria leggermente più bassa, era quasi un metro più bassa, anzi un metro, due litri più bassa della l'altra. Un metro di spostamento, due metri di spostamento di posizione. Se c'è il punto buono, sei a posto. La parola, se ripete così, ci vuole il punto buono. Ma la prima volta, guarda, non avrei abitato lì, ai punti lo sentiamo molto bene. Figurati tu, se lui inizia a fare, se ne va, per dire, 500 metri più giù dove abita, non esce più niente, in quella zona. La posizione del conto. Ci sono i vari canaloni, come posizione. Come la usino, se tu vai a usino discorso la cominetta, esce molto più forte di arrivare dal cartello, per dire. No, cavaloce. No, per rispetto così. Sì, però non sento nessuno va a usino, ma non c'è nessuno ci via a usino. Adesso come sono? Ancora basso il radio, segnale sempre 4. basso. Capa. Lo faccio io. E certo, ha ragione, lo sento basso io. Sì, ah. Così a zero. E vediamo l'esatto microfono. Ho fatto dei giri. Ho fatto un dire il che è congelato, proprio feo. Va bene. Basso, ti sento. Basso. Ehi, la radio è bassa. passa lì, che passa, il segnale potrebbe essere anche buono qua, la radio passa, è la blu. Ma passa, passa lì. Non so vedere. E si scende uno il segnale. Là. Non mi senti. Ah? Non sto dicendo la testa. Non mi interessava uscire a forte e poi Pensate che è uscito così. Va bene, esci così. Così che? A me piace così. Che lavoro, mi interessa, mi sto zitto, non parlo. Che magari che c'è la lata collegata allo chassis, Qual è la mia la batteria? Che è meglio. Dovrei qui smaltire un po' quello che ho mangiato nei giorni scorsi. notte la gente trovare, va bene, ma se la mangi insieme a loro, la notte non ti fai la cena, cioè solo forse deve essere provato la roba lì, se si mantiene, la notte se ne sono in più. Perfetto, molto c'è gente che si è portata giù, prima dove gli altri la giornata erano fatte a fare un bando la sera, cioè a fare mangiare la metà perché si è fatto la giorno prima, la mattina si fanno messi, si è messi tutto, nel tavolo, una cosa del genere, ma non fanno mettere niente, il discorso è questo. Quindi è per me partito che sta girando a piedi la mattina, porta il cane a passeggio, fa la pettinura, attacca lui, il cane, poi lui la meno sveglia, lo stomaco, la roba ne mangia. La mangiava, vabbè, purtroppo chi se la prende l'impegno bisogna mantenerlo, capito? Perché l'animale è come un cristiano, se lo deve bene, si tiene bene, se lo deve male, non tiene da fare il cane, non lo tiene a fare. Ripeto, vabbè. Allora non lo sapevo, che cane sai, Falca? Un bassotto puro. A me non è di quelli grandi grandi, perché cane sono belli, ma l'appartamento io sono sempre stato contrario. Adesso con gli ultimi che sono molti, che ritenevano in officina, ho detto basta, finito con i cani devono stare all'aria aperta, se no sono diventato lavoro, cacchi andare a portarli, a fare bisogni, eccetera, eccetera, curarli, è peggio di un cristiano, perché il cristiano ormai ne guarda solo, ma il cane lo devi portare tu. E la batteria fino alla fine è cosa vuoi fare dopo. E fa accompagnare gli animali, a me piacciono i cani tantino, purtroppo non ho la possibilità di tenerlo in casa. Se abitassi in campagna sì che mi avrei preso più di uno di cane, però non posso farlo, per cui ho deciso, mia figlia mi sta assillando da un po' di anni, figlia nello piccolino, ti ho detto lascia stare che il cane, a parte tutte queste cose qua, poi ti affezioni, quando muore il cane è peggio di un cristiano, per cui basta, ho detto lasciamo perdere. E mi fanno pena perché ne vedo tanti cuccioletti in strada, abbandonati, eccetera, eccetera, però no, non fa, lasciamoli vivere negli spazi loro, adeguati. Avanti Giovanni, Gianni, anzi dai. Anche io avevo 12 anni, uno 13 e l'altro 12, mi dispiace perché poi ha sofferto alla fine, ho cercato di curarlo fino alla fine perché c'aveva un tumore alla gola, c'erano l'appuntamento ogni domani mattina dal veterinario, all'università veterinaria per operarlo, tutto d'accordo, alle 7 e mezza che lo dovevo portare, la notte l'ho lasciato, diciamo abbastanza tranquillo, vado la mattina a prendere della busta. Finish. Infatti, io prima di me è una, per lui una compagnia, capito? L'ho visto nascere tutto quanto, me lo sono portato a casa. Per me è una grossa compagnia, per me. Fino a oggi l'ho fatto sempre compagnia. E sono pieno. Tu quando domani ce l'avrà, ovvio che mi dispiacerà perché anche se è un animale, però l'ha avuto una contatto a casa, capito? Mi dispiace. Però purtroppo, però una volta vuole lui, cari, anche per me non esisteranno mai più in casa. Perché tu una cosa la studi e la sai, va bene, se poi non l'hai studiata, non studi. Però se ti trovano cose che non hai studiato ci rimane anche male, è quello che mi ha dato fastidio più di tutti. Infatti ho detto a Natalina, la sua volta, ho detto no, difficilmente ci ritornerò, sarà molto molto difficile. Vabbè, tanto adesso ad aprile non si farà la sessione d'esame, quella di maggio non la faranno come l'anno scorso, come diciamo l'ultima che hanno fatto a fine ottobre, e poi di lì se ne parlerà più avanti, vediamo un po'. c'era, c'era anche una domanda su quel genere lì, cioè cose allucinanti, io quelle lì le ho fatte giuste, poi informandomi le ho fatte giuste, però c'era una domanda che magari le date per scontate non erano così. Allora, allora aspetta, ti faccio questa domanda, aspetta, ti prendo l'acqua. Vuoi ma sta a finire un attimo, ragazzi, già lo prendo subito. Se l'ho sbagliato. vedi questa è allucinante, all'entrata X viene misurato più un volto, all'entrata Y più due volto, R1 uguale 10 km, R2 10 km, R3 100 km, R4 100 km, quanto la tensione all'uscita di impresa, questo è un circuito operazionale e c'erano questi componenti qua, dove viene il cane le risposte, la prima era 0 volto, più 10 volte, meno 10 volto. Questo l'ho fatto vedere un amico mio tecnico, lui ha risposto, però ci ha preso un po' di tempo. E ti sto dicendo, questa è una domanda che teoricamente dovrebbe rispondere una persona che ci abbia un'infarinatura di elettronica. L'unica domanda, io quello che non capisco, non c'è una domanda di normativa, l'unica domanda di normativa era questa, una trattazione del statuto secondario se poteva chiedere protezione sul statuto primario, non sapevo benissimo il risposto. Poi c'era una domanda sul codice Q, cosa significava QSB e V, non c'era una domanda sull'antenna, nel senso fatto di un'antenna, di un dipolo, eccetera, eccetera. Non c'era una domanda sugli amplificatori, come è stato dell'amplificatore dei decibel, cose. Non c'era niente, c'erano queste domande allucinanti. C'era un'altra, un trasmettitore, vabbè questa l'ho risposta, trasmettitore SSB G3 viene modulato con un segnale in bassa frequenza di 3 kHz, quanto è la larghezza di banda? Questa è la stessa quello risposta. Però sono domande che non sono in una cultura normale di una persona, di quale deve andare molto molto approfondita. Io c'ho un libro, ho scaricato un libro di un esame di patente dell'allenatore che hanno fatto in Svizzera, che molte di queste domande me le sono ritrovate, identiche, precise, per cui la Pantalatti probabilmente è la stessa. Ma ci sono delle domande di circuiti sulle valvole, che io non neanche le leggo perché non ho nessuna cognizione, cose allucinanti. Di qualcosa ce l'ho, i logaritmi, quelle cose lì io le ho studiate, per cui quando li calcolano i decibel, li guadagna, cose del genere, lo so come si fa, anche se utilizzo, non di lì non puoi andare mica con le tabelle logaritmiche, ti porti la calcolatrice scientifica, e la so usare, non c'è problema, e i calcoli li so fare benissimo, non mi teme, però non c'era neanche una di quelle domande. A me quello che mi dà fastidio, che quello che ho studiato, di tutte queste domande il 50% solo erano gli argomenti che ho studiato, l'altro 50% erano domande che non sapevo cosa rispondere, era una cosa che sono andato così per intuito, tipo quella del dio laser, io non sapevo neanche esistesse il dio di laser, non so se tu hai mai sentito nominare come un collegamento in antiparallelo, io non ne avevo mai sentito, ho sentito in parallelo, in serie, contrapposti eccetera eccetera, ma un collegamento in antiparallelo io non l'avevo mai sentito, poi l'ho sbagliata perché le ho chiesto un'informazione all'ingegnere che c'era lì e mi ha detto, gli ho chiesto cosa se esisteva questo vocabolo qua, allora ha fatto un ragionamento e l'ha sbagliata, però ne ho sbagliato una che mi mangio le mani, mi senti questa? Aspetta, dove c'è uscita? Quale polo del cavo di rete deve essere collegato al telaio metallico di un apparecchio collegato alla rete? Le risposte sono il neutro, la fase o il conduttore di protezione? Spesso, cacchio, e non di fatto il neutro, mi è venuto chissà per quale motivo, perché poi sono domande a trabocchetto, il conduttore di protezione è la casa, la cosa esterna, il conduttore esterno di protezione, aspetterà la risposta. E io gli ho risposto così facilmente, attraverso il neutro, invece non c'entra niente, con la corrente alternata non è, con la corrente continua è che metti il neutro a massa, però nell'alternata devi mettere esternamente al coso. Non è semplice perché io forse mi sono aiutato nel senso che avevo una conoscenza di studio abbastanza addentrata su certi argomenti della patente nautica, sono passato la prima perfettamente, ho studiato tutto, le tracce delle ruote, eccetera, eccetera. Ho fatto tutto da solo. Io ho preso patente per allenatori di calcio e ho studiato da solo. Ho preso la patente di perito automobilistico e ho studiato da solo. Cioè, ho fatto tante cose e sono sempre passato, oltre che la patente della macchina. Questo fatto qua mi dà troppo fastidio, perché mi hanno fatto domande che non avevo studiato. E quando tu c'hai un argomento così vasto, perché loro ti danno l'elenco degli argomenti, parli elettromagnetismo, impedenze, antenne, tipi di antenne, eccetera, un sacco di cose, ci sono decine e decine di argomenti. Io non sono entrato nel sito dell'area dove c'è il test d'esame, ci sono centinaia di domande e sono gli argomenti. Io su 240 domande ne ho sbagliato solo due, ma non perché non le so, perché ho risposto in fretta. Se mai fossi stato in seduta d'esame l'avrei letta bene, più lentamente avrei risposto. Lì invece rispondi perché ti danno 10 minuti di tempo, se no finisce la pagina, e devi rispondere in fretta, anzi 5 minuti sono, non 10 minuti. E allora ho risposto in fretta, mi sono fatto aprire, però la risposta la sapevo, e infatti su 240 ne ho sbagliato solo due, ma non perché non la sapevo, perché ho fatto in fretta a rispondere. Poi quando ti rubi l'esame ti rispondono domande così, anche l'ingegnere ha detto era molto difficile l'esame, perché io ci ho parlato, ho detto non è possibile così, di gente all'esame non passerà nessuno, su 23 che eravamo ne è passato uno soltanto, la seduta precedente ne avevamo bocciati tutti, due sedute prima sono tutte passate tranne che una persona, una ragazza, perché gli è capitato tutto normativo e codice Q, invece con loro era tutta roba di elettronica, ma molto non tratta, cioè elettronica molto di un livello molto elevato, per cui cosa cavolo vuoi dire? Se è ancora questa è fortuna, anche quello che va a essere solo questa è fortuna, se ti capitano le domande che sai, vabbè, però io ho studiato, al contrario di qualche donato che è andato di lì e non ha risposto niente, ha detto fesserie, io almeno 15 domande le ho già fatte giuste, le devi fare 18 giuste, però ogni sbagliata ha detto con 0,25 punti. Io a me adesso mi immagino le mani, perché due ero convinto di averle fatte giuste, invece le ho sbagliate, una quella che hai detto tu dal conduttore, però probabilmente sarei passato, però non te lo dicono quante ne hai sbagliato, ti dicono solo se bocciato. Qualcuno l'ha sbagliata, perché le ho detto io, no, guarda che hai sbagliato. Una però, una domanda, c'era la tolleranza frequenza di un trasmettitore, quanto ti diceva Lenti, meno male, quando è venuto prima di partire qualche giorno prima, prima di avere l'esame io gliel'avevo detto, attenzione, la tolleranza frequenza è 0,05%. E lui ha notato, non te la chiedo, non te la chiedo, guarda caso l'hanno chiesto la domanda, meno male l'avevo detto io e lui l'ha saputa, ma Natalino era già andato un'altra volta, però Natalino era un po' così, dice, tanto non te lo chiedo, non te lo chiedo, che invece siamo andati e un delle domande strane le hanno fatte. Poi c'erano altre due, lo stesso lì non ho risposto perché proprio non sapevo cosa fare, non sapevo cosa rispondere, non me la sono sentita. Comunque stiamo monopolizzando, c'è Antonello, avanti Antonello. Non vede gente è convinta, io conosco gente che è andata di lì quando c'era la teoria, la prova pratica, anzi si hanno fatto un disegno di una resistenza in parallelo, calcolare i valori promosso. E vabbè comunque sia, che non sanno niente, sono passati così, gente che si può dire l'hanno regalata la patente. Purtroppo adesso anziché migliorare, nel senso io dico mettimi le normative che sono le cose più importanti, le frequenze che puoi utilizzare, il codice Q, queste sono cose importanti, cosa me ne frega a me se un'antenna risuona a una certa frequenza e che di cosa può creare, eccetera, eccetera, l'intensità di corrente che crea un'antenna, c'è un'antenna di un dipolo, a mezz'ora alimentato al centro, poi c'è il punto di massima corrente, quella è la risposta giusta, però cazzo, quella è una domanda abbastanza specifica sull'elettronica, io dico ma che cavolo te ne frega te che devi parlare sulla frequenza radioamatoriale, se con l'antenna c'è il punto di massima corrente all'elettronica o se c'è al centro, sono domande, secondo me a livello di cosa non lo so. Io quello che mi ha meravigliato, perché sembrava che ti stavamo prendendo un portarma per guidare i caccia militari, non una partenza radioamatoriale, perché il danno che puoi fare tu parlando, tanto a parte che se appena appena ti metti a dire qualcosa ti bloccano immediatamente perché dici il codice e ti ritrovano immediatamente, per cui secondo me sono delle cose troppo fiscali che non sono necessarie, non è come avere un portarma per chi per ammazzare uno, tu con la radio cosa puoi ammazzare, al limite vengono, ti ritirano subito, ti bloccano gli apparati, ma se c'è una pistola puoi fare male, a prenderti un portarma non è così complicato come studiare per prendere la patente di radioamatore, mi sono accorto di quello. Se non ci metti la macchina dell'antenna non li puoi parlare, capito? Se c'è qualcosa ti paghi tutti i danni tu e ti dici pure che fai sempre di galera. Adesso le normative nuove sono queste, sia per le antenne del barattino, sia per le antenne TV e sia altrettanto per le antenne per le parabole. Se non si installa la massa terra, proprio il cavo della massa terra alla cosa rompabile, non puoi installare nulla. No, ma ci sono queste domande sulla protezione dei disturbi atmosferici, c'è la propria domanda, la normativa, il codice devi studiare, eccetera, ma non sono pienamente d'accordo, ma di altre cose, argomenti troppo tecnici, non ne fai nulla, a parte che se li devi studiare, poi dopo una settimana te ne sei già dimenticato. Non sono un tecnico che mi devo mettere a costruire un amplificatore o a costruire un'antenna, diciamo, no, non esiste secondo me. Comunque ho sentito qualcuno basso basso, avanti che vuole andare sul canale 5. Non capisco chi sei, guarda che non senti tu Antonello o Coso o Capri, prova un po' tu Capri, forse sei messo meglio. Avanti, vediamo se c'è qualche tanto, avanti Capri. però sono riuscito a occuparsi, a guardare, messo l'appunto preciso, e Fabio ha dato un rampa, tutto lì. Evidentemente sta controllando l'apparecchio, perché l'apparecchio non lo sentivo anch'io, è un vecchio CP, per cui sa te molto entrare, ma forse non c'ha l'apparecchio perfetto. Ok, ok, grazie, saluti comunque, da, ricambio a tutti, faccio te e il tuo QRA, ma rimango il QR che c'è gente, vai, chiedo scusa se sono entrato così. Arrivavo a basso, non so con cosa cavolo stavo facendo le antenne, perché a Usini a me arrivano tutti tipo Torino, vabbè Torino è un caso particolare, ma vedete che erano quasi 9.30 oggi, quando vabbè era attaccato, se no arriva 9.10, 9.15, pulito con 5 watt arriva quel segnale lì, infatti ho detto mi meraviglio questo qua, Torralba che arrivi così, però sicuramente c'ha rientro di radiofrequenza, di stazionale, che molte volte anche quello ti crea delle distorsioni e non riesci a capire. Vediamo che è rimasto qua su questo canale, avanti, canale 5 come entrare. Break. Avanti in break. Capa, sono Tony Roberto, sono Tony Pompone, se non sbaglio, Joker da questo. Joker, mi sei anche a te, tanti auguri che non ci siamo sentiti, ti rilancio Antonello e poi vediamo che è rimasto. Ciao Joker, saluto di te, sentito, trasportato, vabbè, ci sono parecchi affari che quando c'ho per due, quasi due stazionali, per due quali professioni, e se andare meglio nel SM, invece sono in AM, quindi uno è giusteso, con il vento di uscire bene, e invece si appare sia nel SM, perché vanno in protezioni finali, capito? Sì, sì, è capitato, ma vediamo poi chi c'era, faccia la prossima. Che è rimasto Gian Maria in QRX, avanti gioca Daniele, anzi, dichiariamoci per nome che è meglio, avanti Daniele. Ciao, e beh il campo stai usando? No, l'ho già usato, l'ho messo in moto quando è bugia, l'ho lasciato un pochettino in moto, l'ho spostato perché era da un po' di tempo fermo, cos'era? Il giorno quando siamo andati in corso, il 24, due giorni fa, ho lasciato una mezz'oretta in moto, l'ho spostato anche per non fargli entrare le ruote, non abbiamo fatto tragitto, l'ho spostato di 30 metri, dai. Ah va, aspetta che spero qualcosa, che non va bene. Niente, io invece zero, non lo sto usando per nulla, adesso forse questi giorni farò qualche giro. No, so, guarda, magari si poteva anche usare, anche però il tempo è brutto, a me uscire con l'acqua non mi piace, bisogna fare che ne rimani dentro, non va bene. Se fosse stata una bella giornata che non pioveva, sarei magari potuto andare a fare un giretto, così ci facciamo un giro vicino alla costa per fare una passeggiata, a farlo camminare, ma per andare a sporcarsi di fango, di cose del genere, te lascia voltare pulito pulito, almeno sta asciutto e non... No, non ti fa male, dai, perché è tutto lavorato, anche sotto, non c'è un punto di sporcizia, l'avevo, prima di fare quel lavoro di carota, avevo tutto pulito bene bene, non voglio sporcarlo. Cava, no, io adesso l'ho messo anche su subito.it in vendita, vediamo un po'. C'è già? Ci vado a vederlo allora. Cacchio, a proposito di camper, guarda, è che siamo in Italia, è andato sul sito americano eBay, ci sono dei camper comprati subito, di quei camper motorhome, non parliamo di camper, motorhome, compresi allucinati con 10-12 mila dollari, stiamo parlando circa 9 mila euro, tirando di questi camper, ne ho visto uno, guarda, io non avevo mai visto un camper con la maschera da bagno, questo c'era anche la maschera da bagno, oltre che la doccia, letto matrimoniale, ma proprio un letto, non un coso, né? Che ci apriva quelli che si aprono di fianco, che tipo quelle delle analisi, quelle del circo, che la fiancata si apre e si raddoppia, era una cosa da paura. Con queste camere a letto, questi impianti di illuminazione, sembrava un'abitazione tutto in legno, con la cucina, con un forno a coso, a microonde allucinate, il frigorifero di quelli a doppia anta, ma come quelli di casa, era una cosa enorme. E sembra che fossero 12.000 o 15.000 dollari, era una cosa da vedere. Motore, cambio automatico, telecamere dentro, c'era una roba di tre televisori a LCD, telecamere per lo spostamento, tutto, non aveva levato da niente, aria condizionata in cabina e in coso, in comando, nella cellula. Gruppo elettrogeno, quelli Onan, che costano una barca di dinamo, proprio una cosa allucinante, c'era una cosa da vedere. Ma poi nuovo, perfetto, erano tutti gli sportelli controllati, cioè vedere il frigo, te la priva, il lavandino, dopo il lavandino era una cosa spettacolare. Capa, sai quali sono i problemi qui? Però che sono a benzina, non sono né diesel, perché ne aveva trovato uno a Torino, un mio amico, così era intenzionato, poi era a benzina, era un 5007 a benzina. Anche questo va bene, vabbè, ma cazzo, devi capire che tu non lo usi tutto il giorno, cioè non è che lo devi usare come una vettura tutti i giorni, cioè quando ci spendi 500 euro di benzina per usartelo tutta la stagione, a me meno male, però sei dentro una cassa. Tu hai cosa c'è là, l'impianto satellitare, cioè l'impianto satellitare motorizzato appuntamento automatico, che quello costa più di 3.000 euro, solo quello, e lui ce l'aveva già installato, pannelli solari, ci aveva tutto il possibile e immaginabile, è una cosa da vedere, se lo vedrai, forse per guidare nei mesi lì ci vuole la patente C perché sono enormi. Quello sì, ci vuole la patente C. studio, guarda, se vai a vedere quello viene 10.000, non c'è il prezzo, però è 10.800 trattabile. Ma il tuo? Ma va. Di questo che stiamo vendendo? È quello che sto vendendo io. No, lui l'aveva trovato su secondamano.com, appunto, me lo ricordo, ed è a Torino, ma qui ti parlo di un due mesi fa, bellissimo, lo stesso, gigantesco, lo stesso che si poteva aprire lateralmente, che non usciva fuori tipo la camera da letto e cose varie, dato che cazzo, era, ripeto, un 5.700 a benzina, c'aveva anche l'impianto a gas, però è con pochissimi chilometri, anche perché è come un pullman, è lungo quanto un pullman, 12 metri. Sì, questa è la stessa cosa, come un pullman, è la stessa cosa, è la forma del pullman, con i parabrezza enormi, luminosissimo, che poi tutto pieno di coso, di giallo che di opzione, cioè tutto mocchette dentro, i sedili di guida rigirabili col tamburino dietro, cioè ci usciva un salottino di lì, dal posto di guida ti facevi un salottino, tutto rivestito con questo panno bianco, era una cosa spettacolare. Poi curato nel particolare, non era una roba economica, cioè tu le vedevi le antine degli sportellini dei coso, delle armadi, ma non che dei negozi di intrucciolare, proprio tutta lavorata, intarsiate, le lampade con le aguccia, con il coso, quelle a tipo, come si chiama, quelle che si usavano una volta con lampadario, la stessa, cioè, proprio bello, con gusto, fatto lavorato con gusto questo, e poi era nuovo, cioè mi ha impressionato, c'era il frigorifero aperto, la cucina, il forno, erano spettacolari, nuovi fiammati. La so, sono bene, la. Li mandiamo e li lanciamo a Pompone, se no fa lì a domina. Pompone! Che volevo dire, come ti comporti qui a Sassari? In aereo? Però no, sai, devi quelli devi conoscere gente, no, ci sono delle ditte che fanno questi trasferimenti, se mai dovresti spenderci 1.000-1.500 euro, te li fanno via nave, questi, ci sono questi broking internazionali che fanno, broker internazionali che fanno questi tipi di lavori, anche TNT puoi parlare, gente così, l'altra, come cavolo si chiama, vabbè, comunque questi grossi SDA che fanno anche questo genere di trasporti, te lo mettono dentro un container oppure anche direttamente così, solo che ci vogliono delle persone sicure, devi contattare. $10,000-15,000, cioè barche super accessoriate, e poi in America non è che usano motori di 50 anni fa, usano motori, li tengono 7-8 anni e poi li demoliscono le barche, i motori li cambiano totalmente, cioè non so come lui che un motore c'ha 20 anni e continua a camminarci. Andare con bestemmie del genere. Ma non quello per chi lo usa, ma c'è una cosa impressionante, i prezzi, cioè, lì poi non ne vedi camper piccolini tipo quelli che abbiamo noi, i giocattoli nella gente, lì sono tutti camper che sono dei ex pullman allestiti a camper, motorhome diciamo si chiamano. Noi invece massimo di biglio, un 238, un po' di più, e cammini e fai lo stesso. Lì vogliono tutti i comfort, gli americani sono di quelli che devono avere anche la sauna giù dentro il camper. Aspettate un attimino, ho visto qualche segnalino sotto, avanti chi vuole entrare sul 5, forse è un'interferenza. Chi è rimasto? Vediamo un po' qua sul canale 5 chi è rimasto, riepiloghiamo, c'è Daniele Joker, poi c'è Antonello Pompugno, c'è qualche altro avanti. C'è la Giammaia in QRX, riprenditela Daniele. Kappa, 5 secondi, riprendi proprio che c'è la mia Dolce 50 che mi sta per picchiare. Ecco, cani su Saladeca. Natale, non fare le macchie. Guardate che siamo le donne che piccano, che non si hanno le macchie, a che caso più picchiano le macchie quasi ne più male, non è così? Sì, vabbè, le porte che di solito arrivano, come si dice, le cose che sono state buone. Dicono teoricamente, ma molte volte di Natale qualcuno si nervosisce. Sì, tipo quello di ieri, che si incontrò un campo sotto la macchina. Sono mai uno va al ristorante a festeggiare con gli amici, a farla, e parte in penna e si impilava al testamento sotto la macchina. Da solo lì, è primo coraggio. Non ho capito cosa è successo, spiegamelo. Però se uno è andato nel ristorante che c'è lì vicino al mangiamento, dove c'era la tartoria, e se ci ha avvisato. Ma è morto? Sì, è morto lì. Ieri notte? No, non so niente, vabbè, ma non ho neanche ascoltato il telegiornale. Chi è? Come si chiama? Giovanni Lopin. Ma giovane? Pensa e faccia l'insieme, insomma. Sono andato lì per festeggiare con degli amici. Poi c'è riuscito fuori al locale, non so cosa stiamo a dire, è successo e abbiamo nel tempo di modo scorso ci aveva addosso ha messo la nostra valetta, ha imprendato e siamo sicuri sotto la moto. Aspetta un attimino, ma cos'è? Che moto è? Dimmi, il nome è Giovanni Lopin. Sì, guardati stasera cosa, se di giro se no uno quello. Ah no, videolina, guarda, ti vedo adesso, videolina. E lo vedo, la moto grossa. Ma non è, ma sei sicuro che si chiami Giovanni, no? Sì, sì, sicuro, sicuro. Che ma quanti due ammazzati con chi sei morto, io sono a cammina via, così l'altro giorno quello di Soso correndo dentro città, ma come ti vai e cammina via, vai a morire, io ho un amico mio che tra l'altro non è che sia un granché, ma è morto, ma lui c'ha due moto, una tranquilla, nel senso tranquilla relativamente, la moto che cammina a 90 si fa 240 all'ora, già non è tranquilla, e poi c'è un'altra che ce l'ha a Morris, lui la tiene a Morris, ma di lì quando devi correre anda in Chiri, che bisogno c'è di correre in città, io non capisco, ma ti vuoi mettere fila della moto, vai a Morris, ti fai un paio di giri, e almeno se Trump non è che ti ammazzi più di tanto, e non ammazza nessuno, anche se lì devi stare attento lo stesso, però non è la stessa cosa di camminare in città e sbatterti al muro a qualche matto. Pronto, parlando della macchina c'è finito lui, è stato da solo perché è finito, capito, si è messo in pennale, si è messo, e non so, forse ci parlato con una gente, la moto non è uscito sotto questo palazzo della macchina, e la moto ha fatto, mi sembra, 40 metri più giù, e ha distrutto una sola cosa. Cazzo, io non lo so, quando sento queste cose mi viene voglia di vietare di usare le moto in città. Allora di fare una cosa, questo tipo di moto non si usano più, solo in cose, in superstrada e in corso. Però non lo puoi fare, sarà, perché troppa gente sfidiata, queste moto sono dei pericoli, in 50 metri pigliano 150 all'ora, cioè è una cosa da paura, questi nuovi, quelli di Yamaha, non parliamo di Kawasaki, cioè in 200 metri stai già a 200 km all'ora. E la moto a Sassari è un pericolo, la verità, ma il fatto che ci abbiamo fatto il tifo, quindi anche con lo scooter è pericoloso, figurati. Se lo scooter lo usa, la moto te ne ci manca con la macchina e ti trovi attaccato al paraurti, attaccato al coso, allo sportello, la Sassari è un casino, la verità è un casino. Sì, lo so benissimo. Oh, quello è il più bravo pilota del mondo. Tu stai camminando tranquillo, ti bruciano lo stop, te ne salgono addosso e ti schiacciano. La moto, guarda, è diventata, io a me piace tantissimo, ma non me ne comprerò mai per quel motivo lì. Perché ho detto, no, non è per me, io sono sicuro, nel senso sono prudente. Se vi fate fra gli altri, cacchio, ma tanta gente ha visto quella binata, non per colpa sua. Gente che ti taglia la strada, che ti sorpassa, che poi di colpo ti stringe e te ne butta in terra, e su due ruote. Guarda, è quello che a me mi dà fastidio. Vediamo se gioca le rientrato oppure è sotto anestesia perché non è avuto una cosa avanti, dai. No, sono rientrato, mi è andata bene, dai, ha picchiato poco. Meglio così, dai. E che è brutto più uscire con l'occhio nero adesso domani, se qualcuno ti vede. No, no, non picchia in faccia, picchia lateralmente, con l'uroce, in modo che non, almeno apparentemente non si veda niente. Ah, i fianchi così, entrano e stanno a far più male, però poi non rimangono tracce. Scappa. La moto è bella, bisogna stare attenti. Io invece ho iniziato piano piano con la moto, 50, 125, 200, 250, 600 e 750. Una volta che sono arrivato a 750, la strada, bella, come mi ha dato mio figlio, me la sono venduta e sono ritornato al Vespone. Vabbè, è fatto bene, anche se il Vespone, come dico io, tu sei tranquillo, passa uno, ti dà una spinta, cade in terra e ti fermano lo stesso. Perché sei sempre su due ruote in macchina, vabbè, se devi morire puoi morire anche dentro la macchina, nel carro armato, se per quello. Però sei protetto, c'è quattro ruote, diciamo, ti bruciano molto qui in città, al limite è un bel colpo, però raramente ti succede cose gravi. Mentre in moto abbatta un colpettino da niente, tu cadi, sbatti la testa o ti passano sopra e sei peggio che mai. E il problema sai qual è? Che io sto pagando molle, l'assicurazione non la sto usando, se no all'anno ti faccio 15-20 km anche troppo, all'anno. E di che anno è il Vespone? Come? Il Vespone di che anno è? Dell'82 se non sbaglio. 30 anni non ce l'hai ancora qui. Allora, dell'82, no, non ce l'ha. Perché non te lo iscrivi? Quanto ti pagano le assicurazioni al Vespone? L'assicurazione pagavo 210 euro all'anno. Perché invece non ti iscrivi a un'associazione così paghi 90 euro all'anno? Sì, vabbè, anch'io quella dovrei fare, però poi non so, l'avevo chiesto, un po' di problematiche c'era. No, abbastanza semplice, ti dico la bella io, con 25 euro te la cave. Però informati, siccome esiste il registro storico delle macchine, delle moto d'epoca, anche che non hanno compiuto 30 anni, adesso non vuole esistere una fesseria, ma vuole che il Vespone sia inserito in quell'elenco di grosso interesse storico, per cui anche se non hanno 30 anni vengono riconosciute. E c'è la riduzione del coso, del bollo, non si chiama più bollo, si chiama tassa solo di circolazione, anziché tassa di possesso. Prova a informarti, perché non lo so. Mi sa che il Vespone faccia parte di quel gruppo. Vabbè, ma di pollo paga una fesseria, non è quello, è l'assicurazione che incide molto di più. E per il tempo quando stai pagando? Allora, il pollo se non sbaglio è 25 euro, 26 euro, di assicurazione 220 euro. Vabbè, io pagavo la metà, poi alla fine poi sono andato via per questa assicurazione che era di Furio, un broker di Prato mi sembra che era, e sono andato qua alla Carige e lo stesso pago con la cifra intorno ai 200 euro mi pare. Ma anche io sono alla Carige. Tu c'hai il transit come il mio, anche così? Yes, un Clipper 580. Il mio Clipper, cioè, ma cosa è gemellato il tuo? No, negativo. No, il mio è gemellato, comunque me lo guardo in fotografia. Ma dove lo tieni questo capo per curiosità? È la tua? Cava. E c'è, no, quello che c'è, quell'altro Clipper che c'è, hai visto via Catalucchino dove c'è l'ingresso, perché è ingresso della Fiat, diciamo, che adesso fanno il lavaggio delle macchine, lì ce n'è sempre uno parcheggiato, però su meccanica Ducato. L'ho visto, sì, ma il mio è un Ford Transit 2005 ID. Come il mio, lo stesso lezione diretta. Oh, quel motore è indistruttibile, lo tieni fermo due mesi, vai, mezzo giro di chiavi e parte, senza né candelette né niente. Scappa, lo so. No, il mio ci dà il primo colpo. E ti dico una cosa, l'ultima volta che l'ho usato, fai un mesetto fa, che sono sceso a Cagliari, in rettilineo, in pianura, forse perché non c'era vento, cazzo 120, infatti sono rimasto. No, non so quanto sono arrivato, però cacchio, bisogna stare molto attenti, a 130. era fatto così, l'ho lanciato di lì, quel pezzettino lì, c'era la valle della discesina, ho mollato, poi anche che potesse arrivare anche di più, è arrivato a 130 al mio. Mi fa, la velocità sono pericolosi, iniziano a ondeggiare, fa troppo vela. No, ma è stato un attimino, ho voluto, a parte che prima di arrivare a quella velocità ci volevano 3/4 d'ora, però la velocità di crociera, diciamo, intorno a 100 km all'ora ci può camminare, 95-100 se non ci sono salite importanti, in pianura te li tiene 100 km all'ora. Sì, quello va bene. Guarda, io infatti un po' mi dispiace sinceramente, Fenderman, perché dopo tutti i soldi che ci ho messo sopra mi si gira un po' le palle. Lo so, purtroppo, io l'ho usato talmente poco, devo un po' volerlo un pochettino, però per il momento non lo tengo ancora in casa mia, allora io mi sono comprato televisore giovane di CD, ce l'ho ancora mia, senza me in scatola da installare, mi ho comprato l'impianto satellitare per il camper a 12 volt con il ricevitore, ancora da installare, il pannello solare ancora da installare, con tutti i regolatori di carica eccetera eccetera, il che si chiama l'altra cosa, i sensori di parcheggio li devo ancora installare, poi ho preso, vabbè, come ha dato mio fratello, l'invertitore di corrente, l'inverter, metterne un altro per un'altra posizione, volevo ancora installare, c'ho tante cose, ho avuto tempo di fare niente, perché poi sono andato in vacanza al mare dove vado sempre io, l'ho usato solo quei 3 giorni in Corsica, e non ho più avuto tempo di usare, adesso mi sono promesso, quando mi fa una bella occasione, di faccio tutte queste modifiche che gli ho fatto. Capo, no, io ti ho messo, prima cosa il pannello solare, dopo il giorno cosa ci ho fatto? Ah, il frigorifero nuovo della Fijifrigo, con ghiacciaia grande, piccolino, ho fatto via il vecchio, ci ho messo, perché l'altro ci stavo soltanto 2 latine di coca dentro, mentre adesso ci puoi mettere carne, bottiglie, e ci stanno bene in frigo. Poi cosa ci ho fatto? Ah, il radiatore nuovo, l'ho cambiato un mesetto fa, che mi sono accorto che c'era una piccola perdita d'acqua, ma proprio una fesseria, proprio dal radiatore, appena sono andato e me lo sono fatto cambiare, e quello mi ha costato 220 euro. Poi c'era la galleggiante del carburante che ogni tanto non segnava, anche quello ho fatto buttare a terra, messo no, 170 euro. Poi cosa ci ho fatto? Ci ho messo 2 batterie da 65 ampere. Non me lo ricordo adesso cosa ci ho fatto anche. No, vabbè, poi il radiatore, c'è un sistema, un prodotto che ha delle piccole turafalle, che è una bomba, l'ho provata anche io, c'avevo la stessa una trasdurazione, una perditina piccolina, l'ho messa, me l'ha eliminata immediatamente, ma anche per cose grosse, c'è un amico mio, me l'ha consigliato, un meccanico, mi ha detto, metti quello, una bomba, non c'è bisogno di sostituire niente. Lo so, però lo preferisco anche perché... Chi mi ha detto che è ottimo, chi mi ha detto anche però che ti potrebbe anche intasare ancora di più il radiatore. Quindi ho detto, affanculo, lo metto nuovo e ciccio. No, aspetta un attimino, però devi mettere quello liquido, non mettere con la polvere. Con la polvere che non conviene metterlo. Bisogna seguire una procedura, far scaldare bene bene il motore, poi togliere l'acqua e poi subito buttare dentro questa roba qua. Così non rompi niente, se no ti crepi il termostato e rovini tutto. Non fa niente. No, io l'ho fatto, ti posso dire, eccezionale. L'ho tenuto più di un'ora, sono in piena estate, sotto il sole, ho fatto proprio la cremadura. Oh, vabbè che quello c'è la ventola diretta. Prima di non essere arrivato in temperatura si può dire col motore. Capo, quello sì. E vabbè, e quindi me lo sto cambiando, anche perché il nuovo me lo sono già ordinato. Ma nuovo non è tu? Ah va. E che cos'hai preso? Laika? No, ho preso un... vuoto di memoria, un momento. Ricordi? Ci credi che mi sbatti? Un bastone in testa, non me lo ricordo che cazzo mi sono ordinato. Allora, vabbè, un 7 metri di lunghezza e un... non è possibile, che non mi ricordo. Cazzo, Alzheimer! Alzheimer? No, non è il nervo. Rimo? No, negativo, è... Ma è la mia donna sorella anche. Mi ricordo più un attimo sulla mazza. Appena riprendi, tra l'altro, sennò ti troviamo in boludo. Ah, Cesena, della... da su 5, che è rimasto? Ed è un... Appena è memorizzato. È un McLuhan. Sì, sì, già sono belli anche quelli. Oh, vabbè. Quando lo compri nuovo sono tutti bene. Le camere direttamente sul nuovo. Sai cos'è? Che almeno so che il mio lo tengo io e ciccia, e non ho più, non ho bisogno di stare lì a rompermi le palle, magari, cioè almeno per un paio di anni è a posto. Vabbè, ma costano un sacco di soldi nuovi, mentre magari di un paio d'anni li trovi la metà di quello che costa, ma sono sempre dei mezzi nuovi, perché i camperisti non sono di maggior parte le soluzioni, sono persone ordinate, gente che li curano, magari più di una vettura. Non è che magari una vettura di due anni magari devi stare attento, ma un camper normalmente non fa grossi tragitti, viene abbastanza controllato, perché uno quando si muove deve essere sicuro, per cui anche gli italiani delle manutenzioni. Spendere soldi per un camper nuovo, non lo so, io non l'avrei mai comprato. Comunque, ognuno c'è il conto in tasca sua e sa quello che fa. Ma no, guarda, allora, in quale farò io l'ho preso con il sconto, almeno promozione fiera, perché è appena finita la fiera, e riferraffe con optional balle varie, mi fa 40.300 euro. E ho guardato altri della stessa marca e cose varie, mi veniva intorno ai 46-47 mila euro, quindi con la cifra lì mi sono un po' risparmiato. Sì, no, non metto in dubbio, però sono sempre cifre abbastanza rilevanti, magari, non dico con 20.000, ma con 25.000 le trovi magari di un anno e mezzo, così quelle di una stagione, che sono come che siano nuovi, ti risparmiano di base, l'aria condizionata naturalmente. Capa, nella cellula, cosa, l'abitacolo sì, nella cellula no, tanto non te ne fai nulla, anche perché per me è una fesseria quella. No, nel motore, nell'abitacolo parliamo. Quello sì. È importante perché poi quando fai strada per caldo, io quello posso dire un pochettino l'ho sofferto il caldo, anche se abbassavo tutti i finestrini, sono abbastanza ampi, però quando c'è caldo si sente, dai, non è che abbia assaggiato molto sotto il sole, però se fai traditi molto sotto il sole, certo, vedete lo sì. No, quello sì, il climatizzatore c'è, poi non c'è quello che si mette sopra, quello normale della vettura c'è, ed è un Ducato, un 2003, turbo diesel, 16 valvole, 180 cavalli. Ma sono mezzi che camminano, quello che è poco camminano, sono delle bestie. C'è un amico mio, Laika, però lui ce l'ha, non so se sia 160 cavalli o 130, ma cammina che cosa, è bello il suo, c'ha un allestimento bellissimo, proprio curato. Anche lui si può prendere il motorhome, perché questo è uno di quelli che va fuori, va anche all'estero, fa un sacco di migliaia di chilometri, diciamo, all'anno fa con questo mezzo. E vuole prendere qualcosa di più grosso, un motorhome si può prendere. Ecco, fatto a me il motorhome non piace, preferisco quelli mattallati, che saperlo tu. Dipende tutto da cosa ne fai. Io per uso mio, il mio è anche troppo grande, se fosse stato anche più piccolo sarebbe stato anche meglio. Più, tanto noi siamo due adulti e due bambini, anche un quattro posti andava bene, il mio è un sei posti, e andava bene anche più piccolino, magari anche poco più stretta, perché tanto è solo per dormire, non è che ci devi, quando ci fermavamo mandavamo fuori, mica dentro. No, io mi sono preso però col garage dietro, in modo da infilarci le spone dentro. Ancora lì, no, di quelli sì, quello già è bello. Ah, ma. E infatti c'ha sei posti di letto, c'ha un letto matrimoniale nel mansardato e uno dietro sopra al garage. E poi c'è la dinette che si trasforma in letto matrimoniale, un sei posti. Viaggiante e sei posti letto. Anche sei viaggiante. Vabbè? Sei posti viaggiante e sei posti letto. Dava. Quello già è buono. E anche a me è così, se viaggiate e se letto. Perché mentre le anni che c'è tu quanto è viaggiato? Quello che ho io è 6 posti viaggianti e 5 letto. Ah, è contrario, no, il mio è 6 e 6. C'era il sesto lettino, ma è stato tolto da prima perché era un cuscino di cazzo, mi aveva detto il mio collega che c'aveva lui prima, chi l'aveva tolto, non si arrivava una mazza, io occupava posto e mazza. Allora vanno bene quei mezzi, dai, non saranno velocissimi, un po' rumorosi, dai, adesso che ti metti questo probabilmente rinascerai per il discorso del rumore. Infatti devi abituare, io all'inizio ho detto, cazzo, come fai a camminare con questa roba, ogni rumore di trattore? Abituato alla multipla, molto silenziosa, luminosa, l'aria condizionata, eccetera, e poi alla fine ti ha abituato anche per quello. Figurati quelli che vanno con 2.38. Cazzo, vabbè, rilasciamo un po'. Ho chiamato prima ma non ha risposto, vediamo un po', canale 5, attenzione a chi vuole entrare. Come ti sta arrivando di segnale, Daniel? Io non voglio entrare. Entra. entra, no, se non vuoi entrare. Scusate, ma da me come ti fa arrivato il segnale? Senta Gnome per Radio 5, sempre buona. Ciao, parlate per qua. No, sì, Santiago 1, Radio Blu, appena 0. Appena impercettibile. Non vedi che sei ritornato tu adesso per farlo da me prima. Ma non ero con questa radio, stavo provando un'altra cosa. Un altro paratino piccolino, cambia. Ehi, va bene. Ma Daniele già l'ascolti, sì? Sì, lo ascolto. Non ho capito chi era comunque. Buonasera, mi hai sentito per la primiera. Scappa, salutoni da questa parte, Joker. Daniele. Scappa, mi hai sentito, è la prima volta. Io mi pare che non ci siamo sentiti altre volte. Può darsi, sì, può darsi, no. Non lo so. Ui, riprendi tu, vabbè. Questo che cosa questo apparato è? Daniele, cosa avete autorizzato? Io, Midland, Alan 28. Questa è una bella radio, bella pulita, tranquilla, non fastidiosa, vabbè. Il microfono qual è il suo originale? Ah, negativo, questo qui è un Alan F36. Il microfono? Brava. Non lo conosco. E quelli preamplificati, dai, che c'ha pulsantiera, che ti posso cambiare i canali da sopra. Poi c'è il bip e basta. Ma è un parlare, quindi? Cava. Ah, no, pensavo fosse un microfono da tavolo. Andate per fare, prendi. Non ho capito che microfono era. Che microfono è, Daniele? Un F36 dell'Anan. Ah, un vecchiotto però. Oh, di più pure. Ah, ecco, perché mi pare che non mi facciano più gambe pezzo, eh. Ah, ma è anche l'apparato che ho io, l'apparecchio che non ne fanno più, è di cosa che almeno io ce l'ho qui almeno da 20 anni, 25 anni già questo apparato. Capo, chi è quello che c'ha la rotellina sopra? Cosa? Quello che c'ha la rotellina sopra. Ma negativo. Perché c'era quel cos'era allora? Il rotellino sopra è regolazione. No, vabbè, c'ha un coso di regolazione a strisciamento, ma non è la rotellina. Se ricordavo così io, ho sbagliato. Paolo, guarda un po' se cambia un po' che fa il segnale, guarda adesso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola. Adesso è cambiato, sì, adesso si è passato quasi a 7. Va per la radio? Ed è aumentata anche la radio. Va, e a te Roberto, tengo meglio. Cioè, la radio è 9 più 20, alle 6 già 8, 9, qua c'è 9, 10. È migliorato tantissimo. Quanti ne sta vedendo? No, dovrebbe essere 100 di quelli, diciamo, elettronici, ma sicuro da poco sono 25. No, già va bene, dai, si sente molto forte il segnale, niente da dire. Ma tu, scusate, non c'avevi anche il cavo, o sbaglio, come apparato? Il? Che punto? Ah, negativo. Non ho mai avuto. Ma utilizzavi qualcos'altro rispetto a questo che è adesso? Prima, molto prima, c'avevo anche un... sono vecchiato, questo l'ho dato a... non so se l'hanno sentito, Gianni Zorro. No, non lo conosco. Allora, quello, ma sempre la macchina, diciamo. Mentre di... Aspetta che spengo qualcosa, là, che va meglio così. Mentre prima, quando c'aveva un motore a turbo sopra la casa, c'aveva anche un valvolaio da 250. Cazzo, quella è una bestia. Tutto la tua via? Ma no, ce l'ho ancora, dentro qualche scatola buttato, non mi ricordo dove cavolo è. E le valvole ogni tanto dobbiamo farle funzionare, e anche i componenti, se le poi ci butti tutto. Sì, vabbè, non c'ho più niente. Se attacco quella cosa all'antennino che sto usando io, che è una boomerang di quelle un po' grandi, si scioglie quanto c'è. Grande, naturalmente ci vuole anche l'antenna e il cavo, se no lasci tutto, rovini gli apparati e l'amplificatore, ti rovini, va bene. Io non li uso, io ho solo la potenza dell'apparato, non ho mai avuto necessità, diciamo. Già mi ascoltano chi mi vuole ascoltare, se no pazienza. Ma guarda, io sì, l'ho usato qualche volta, soprattutto per fare DX, così quando ho certo pagazione, ma se no non lo usavo mai. Una volta l'ho usato però per le scatole, ma quella era fatta apposta. Vabbè, quelli sono altri discorsi. Bisogna educare certe persone, perché quando tu parli tranquillamente una ruota, io ti parlo di 20 anni fa, c'era questo ragazzo di Villanova Monteleone, ed ero in macchina a Fertilia all'aeroporto che stavo parlando con questo ragazzo, questo qui si è messo in mezzo e mi ha parlato, no ci parli con lei, ti ho parlato tanto io, un cretino. Quindi l'hai avuto incenerita? Ah, ma poi quando sono tornato a casa l'ho cercato, quando l'ho trovato ho fatto, mi sono ripresentato e ho fatto, ti ricordi quello che ti hai tappato tu ieri sera? Bene, adesso non parli più tu, ho tappato anche la gente che c'era lì nel suo paese. Ma le immagino. Soltanto che mi vedevo dentro i televisori, da tutte le parti mi vedevo qui in zona. Vabbè, poi da stare attenti anche ai mali e ai disturbi, che puoi creare anche dei disturbi a chi non c'entra niente. Quello sì, ma infatti l'ho usato soltanto quella zona, se no lo usavo soltanto di notte tardi. Sì, va bene, avanti per qua. Andare molto meglio poco fa, non ho aumentato. Lo so, no, però non mi va di tagliare per scattare, anche perché c'è mia moglie col bastone che mi sta aspettando. Bene signori, vabbè, ci sentiamo alle prossime, Pierpaolo ti saluto, ci sentiamo alle prossime, buon fine settimana e auguri ancora a tutti, ciao ciao, bye Roberto. Ciao Daniele, quando vuoi, già lo sai, sei sempre ben accetto, non c'è problema, tanti auguri di nuovo, buona giornata per domani se non ci sentiamo, avanti Pierpaolo. Papà, saluto e accetto Daniele, dai, se non ci riascolto alla prossima, buon proseguo di serata, ciao ciao. Avanti, ciao a tutti. Se senti qualcuno che vuole comprare un camper, fammi uno spillo. Sì, ma adesso guarda, c'è il numero di telefono su subito? Papa, ce ne sono due. Già l'ho controllato, non penso ce ne siano molti di clipper in zona di Sassari. Già ci provo a entrare. Papa, c'è l'imprenditore, vendo camper Enag sul Ford Transit. Se lo vedi, c'è l'imprenditore con la veranda aperta e poi ci sono le fotografie dell'interno. Sì, già va bene, ma guarda, perché io ce l'ho guardato, voglio capire se è identico al mio o se c'è qualcosa di diverso. Va bene, ok, per fare, prenditela. Sì, aspetta, di nuovo buonasera, ma proseguo. Allora, Roberto, su campo non lo manda. Sì, stanno qua giù dentro. Tu non vedi quante cose io faccio e quante hobby ci abbia. La metà sono truppi, ci vuole almeno altre 3 o 4 persone per fare tutto quello che faccio io. È una cosa allucinante. Va bene, dai, l'importante è essere pieni di vita, dai. Non dipende da noi poi tutto il resto, già lo sai meglio di me. Purtroppo io l'ho preso perché era un'occasione e non bisognava lasciarsela perdere. È stata uno sfizio, purtroppo adesso sono sposato, ma se l'avessi avuto prima di essere sposato l'avrei usato molto, ma molto di più. Adesso d'estate io vado qua vicino già da circa 6-7 anni, diciamo, forse anche di più, vado sempre qua a Patavola, c'è questa casettina in affitto e lì c'ho tutto a portata di mano, per cui il camper in quei 2 mesi che sto lì l'ho usato pochissimo, l'ho usato 3 giorni per un'altra volta prima dell'estate, prima di scendere giù l'ho usato e poi a settembre e basta. C'è la comodità di avere, però se l'avessi avuto quando non avevo ancora questa casa l'avrei usato molto ma molto di più sicuramente. Perché tu lo usi solo per il mare, ma tu ce l'hai, lo usi anche per la montagna, per andare a fare, adesso c'è la settimana bianca e tutto quanto, tu lo usi solo per il mare, invece è bellissimo anche in montagna. Sì, proprio perché va per la settimana bianca, io ho lavoro che posso che faccio io, la settimana abbiamo lavorato in officina, non ci sono problemi. Però per dire, questi punti di qua, per dire 26-27, si potevano fare, purtroppo il tempo non te lo permette. Se fosse stata una bella giornata, cacchio, invece domani avremmo attaccato e poi avremmo fatto un giro, tipo la roba che è montata da questi cenoni, da questi prendi natalizi, e ci siamo anche divertiti, ma abbiamo lasciato le bambine all'aria aperta. Purtroppo, quando vedi queste giornate brutte, piovose, freddose eccetera eccetera non fa, però mi sono ripromesso verso aprile quando inizia, se Dio vuole, la bella stagione, sì che lo userò, direi almeno il fine settimana che sarò più libero quando terminerò col discorso della squadra di calcio, da fine aprile già avrò modo di usarlo se Dio vuole, dai. Capo, perché è bello anche andare in montagna o al mare, in occasioni così è bello usare il camper. C'è la stufa a gas, c'è tutto quanto per funzionare, c'è la facoltà. casa, diciamo, non, però diciamo il vero non eravate sicuro che avvocati a casa lui a Calduccio, là. È molto più confortevole. Cosa c'ha? Quello che c'ha? Anche i pannelli solari? No, allora il pannello solare lo devo installare, c'è uno da questa estate, però non ho avuto modo di installarlo, ma diciamo una cosa non indispensabile il pannello solare, perché lasciare batteria abbastanza grossa, normalmente se vai in qualche campeggio ti attacchi di lì alla corrente elettrica, ma c'è anche un gruppo elettrogeno piccolino da 1500 watt, di quelli leggerissimi a 4 tempi, volendo posso utilizzare anche il gruppo elettrogeno piccolino. Vabbè, ma ho visto che ci sono quelli con i pannelli solari che ci alimentano tutto e vanno molto bene, ho visto uno che si accaldava molto bene e ci alimentava di tutto, dalla televisione, tutto, abbastanza bene. E pratica, questo qua c'ha anche, ricarica la batteria stesso. Più che altro sono per ricaricare le batterie, non ce la fa a funzionare, a meno che non te ne metti 200 metri quadri di pannelli solari, di media allora, quello che c'è io è 23 watt, fatti il conto, ed è abbastanza grande, non è piccolino, se dovessi mettere una diecina per avere la possibilità di far funzionare il televisore, assorbe 41 watt, che è la minima cosa che assorbe, però se c'è un frigorifero ci vogliono almeno 400-500 watt, per cui per arrivare a 400 watt ce ne vogliono 20 di quelli che c'ho io, che sono grandi, diciamo 80 cm per 40, più o meno di grandezza. Sono più che altro diciamo per ricaricarti le batterie, cioè delle batterie ausiliarie, e queste nelle giornate di luce, diciamo, quando c'è un po' di sole, riesci un po' a ricaricarti le batterie, ma non pensare che ti producano energia a uffa, è proprio una cosa minima, almeno questi che abbiamo adesso. Poi ci sono questi che stanno sperimentando, magari a decadere nel 20 te ne danno 50, questa nuova generazione, però portano cifre da paura. Sì, ma guarda, questo comunque gli dà, con questa cosa qua gli dà l'acqua calda, gli scalda l'acqua, non c'è un bel vestito quello che fate, ma comunque, vabbè, c'è già anche montagna, questo ci sto dicendo, No, questo è molto funzionale, cioè è sempre un aiuto, pure naturalmente c'è il gruppo elettrogeno, e c'è anche una silenziata di quelli silenziosi, mi. Sì, no, c'erano anche io quelli piccolini sigillati, avevo preso la città mercato, c'era un'occasione, l'ho preso al volo, ma lo stavo sempre tentando perché ho guardato su internet, da un po' di parte, e quando ho uscito l'offerta l'ho beccata al volo la città mercato, 4 tempi, non fa, diciamo, rumore già ne fa, però è silenziosissimo, te lo metti in un angolino, non fa né fumo né niente, proprio sembra una valigetta, diciamo, una specie tutto chiuso in pratica, molto ben insonorizzato, poi non fa grande rumore, te lo puoi tenere anche vicino, per cui no, non è di tipo quelli che usano le bancarelle che fanno un po' di rumore, questo è molto silenzioso, l'ho usato anche la settimana scorsa in campagna per tagliare un lucchetto che si era preso la chiave, è andato alla grande. Quello giallo, tutto rivestito chiuso, è pratica giallo. Quello lì proprio, tutto giallo. Facciamo anche io quello. Quello a 4 tempi però c'ho io, come si chiama, che fa? 4 tempi a benzina, sì. 4 tempi quello, benzina come a miscela, no? Quella da sì, l'ho preso anch'io quello. Sì, ma è una ditta italiana pure, anche se è costruito in Cina, lo distribuiscono in Italia, c'è l'assistenza, io ho telefonato, guarda, una ditta serissima, io ho preso il supermercato, l'ho tolto, l'ho portato a casa, lo stavo provando, ho fatto quello vedere il tappo, all'interno c'è una specie di valvola, non so se l'hai vista nel tappo, c'è un rubinettino per lo sfratto, perché io l'ho visto tutto smontato, e però forse vuole assemblato, lo guardo bene la notte, però non ho fermato tutto lì per fare. Sono andato al supermercato e ho detto questa roba qui, anzi scusa, no. Non più città mercato, prima ho telefonato l'assistenza, guardate io ho comprato questa roba, mi dicevo, dopo 2 giorni mi è arrivato Paco Celere, il tappo nuovo, poi quando mi ha città mercato mi ha detto, ma scusate, ho acquistato, il giorno stesso sono andato anche a città mercato, quando ho telefonato quelli, questa roba qua, perché non mi immaginavo, ma lo spedissero quelli, invece gentilissimi, non ho voluto, alla città mercato mi è arrivato un po', quindi dice, ma non va bene, adesso dobbiamo chiamare, ho detto, ma adesso scherza, allora faccia una cosa, se mi prende la parte mi restituisca il suo, ma no, male qua là. Ecco, e poi abbiamo uno dentro la scatola, ma sono sigillato un sacco di giri, ma ecco, faccia una cosa, se lo sta andando dal direttore, mi diamo uno di questi tappi, e abbiamo la data, adesso mangio due di tappi. Anche non dà la batteria, no, non fanno mai il sole, dico, cambiato qua, sono andato, ho fatto vedere che la moto, perché la moto ho preso anche come si chiama, quello di quegli affari, un barter, da 12 borsa a 2,20, no? E quando ho portato la scatola era rotto. No, sono andato, si dice, vabbè, prendo un'altra scatola, ho fatto il bigliettino, poi sono riandato nella casa centrale, me l'ho timbrato e via. Tantissime volte, l'ho fatto diverse volte, però siccome queste erano cose in offerta, che duravano un paio di giorni le offerte, ed erano pacchi sigillati, loro quando sono sigillati non te li aprono mai qua, sia quando l'ho comprato io, tu non hai quanto ho dovuto battagliare per farmelo vedere, deve venire domani, era di domenica, domani che c'è il tecnico che glielo fa vedere, no, io lo voglio fare, sono controllato lunedì, ma non li possiamo aprire, i pacchi, lei lo può, no, detto, no, io voglio vedere l'ingombro massa, siccome io ho problemi di spazio nel campo, dovevo metterlo in un garrone. Tanto passava un centimetro di differenza e non ci stava, perché avevo già preso un altro e poi l'avevo dovuto restituire, che non andava bene. Allora ho detto, no, lei mi deve dare le misure esatte, perché loro mettono a prendere 40x50, poi la misura è 50,5, non ci sta, oppure un po' di meno, se un po' di meno già va bene. Ho detto, no, lei mi dica la misura, l'abbiamo preso, e lei, no, ma non lo possiamo aprire. Ho detto, no, io lo voglio acquistare, cosa vuol dire? Lei deve andare a vedere, io quando compro la cosa la voglio vedere. Dopo tante per i pezzi, alla fine si è avvicinato questo, più anziana, ha detto, vabbè, apri. Quando arriva a casa, avevo un controllo e vai facendo questa cosa. Ci ritorno in domani, anche prima ho chiamato quelli lì e me l'hanno scritto dopo due giorni. Ci ritorno e ho detto, guardi che c'è quello, me l'hanno cambiato. Un sacco che prima di cambiare, ho detto, no, lei me deve dire, ma lei adesso bisogna spedire la garanzia, bisogna mandare. Ho detto, ma io come rimango senza gruppo, a me mi serve, io devo partire, con questo non posso aspettare. Alla fine ha capito come stavo girando, perché ha detto, no, guardi, se lei non lo può fare, non se non si prende la responsabilità, mi chiama il direttore, io parlo col direttore e vediamo come va a finire. Alla fine vabbè, l'appetto me l'ha dato. Hai fatto un po' il furbetto, No, io ho fatto sempre il furbetto. Mi dispiace per quelli di Continente, perché quelli di Continente io non me lo aspettavo che me lo spedissero. Io ho detto lì, due anni se ne mandano quelli di lì. E invece sono stati gentilissimi, dopo due giorni mi arriva, guarda, sono rimasto a bocca aperta. Non me lo sarei mai immaginato una vita così seria. Poi gentili, che poi adesso quando l'ho messa in moto, che era una quest'estate che non partiva, e avevo dei problemi però l'ho messa in moto. C'avevo un dubbio su un interruttore della posizione, perché come mai che questo vuole messo girato al contrario, quello dell'economy. E poi detto non serviva niente, non c'entrava, c'è un tratto economy, non so se ti ricordi, che lo metti quando non lo utilizzi. E mi mettono quello per attaccare, non attaccare, non cambia niente. E ho telefonato gentilissimi, proprio in gamba, proprio cortesi. Io se non ho dei variati me l'hai fatta, se no adesso me lo dai, e me lo sono fatto là. Scaricare, mi pare che chi tu fa più di scaricare la miscela non sia tanto consigliabile. Lo Smith, ma si sta che me la maledetta, cos'è lo Smith? Ah, si muove, vabbè, non è fa niente. No, non è c'è la pena che si muove, lo Smith ha apparato vicino. Sì, io lo faccio finire lo stesso, lo lascio in moto, chiudo il rubinetto e lo faccio finire, capito? Io ho visto il baracchino spento quando c'era una persona vicino a me che c'era potenze allucinanti, ho visto lo Smith muoversi col baracchino spento, ma uno diceva è impossibile, eppure quello si muoveva poco poco, ma si muoveva. Ma questo va a provocare addirittura. Ma io poco fa veramente arriva forte Capri qua e io c'ho il commutatore antenna su questo apparato, nell'altro apparato volevo ascoltare, mi piace vedere come arriva nell'altro apparato per curiosità, e c'era l'antenna attaccata e sentivo a Capri, anche se c'era il commutatore poi girato dall'altra parte, lo sentivo Santiago 2, però vabbè, 2 forse neanche, Santiago 1 entrava nell'altro apparato. C'è radiofrequenza, lì ti entra dentro la carcassa dell'apparato possibile tutto. Io ho una gente di tutti i rigurosi, gente che ti entrava dentro il televisore, gente che ti entrava nel citofono di casa, gente nel telefono di casa, di tutto ne ho sentito. Purtroppo la radiofrequenza, se trova un passaggio, passa. Vabbè, quelli però sono disturbi. un pochettino più seri, meglio non entrare mai in quelle cose, per il fumo. Devi stare attento molte volte se c'è apparati che non sono allineati bene, stai utilizzando potenze un po' elevate oltre la norma, ti può capitare, soprattutto quelli che non sono omologati, quelli di vecchia generazione, che lì rimani la terza, quarta armonica o quinta, riesce a penetrare, ma c'è la stancata già tua, quello sta parlando e senti a te perché l'armonica riesce a entrare a penetrare. Vabbè, sono casi che può succedere. Però se qualcuno gli disturba qualche cosa, è preso sempre, se magari viene e te lo dice con dovuti modi, ti dice guarda così e così uno, insomma vediamo cosa possiamo correggere, ma invece mancherà sempre in troppa. Vabbè, ma poi bisogna controllare anche altre cose. Allora io ti posso garantire una cosa, io grazie a Dio non ho mai avuto problemi, una volta soltanto questo che c'ho vicino, però questo c'ha il cavo del telefono di casa, era una giornata tipo oggi, un bel piovoso, ed ero in FM, però ho contatto un pochettino. E mi ha detto, vabbè ti sento, ho detto, tu mi senti, è possibile. Ho detto, eppure cambio, me l'ha confermato, mi ha ripetuto le parole, l'unica volta che è successo, però poi abbiamo controllato, c'era il cavo immerso nell'acqua, completamente sbucciacchiato, probabilmente l'antenna, insomma l'antenna era a mezzo metro, probabilmente qualche radiazione è passata, ma non è più successo. Io sotto casa mia, io ho l'antenna, l'hai visto che ho l'antenna io a fianco, a mezzo metro, ho messo l'antenna, l'altro faccio l'antenna alla televisione, attaccata, l'ho attaccata dal muro di dove c'è la mantova. E ho provato una volta per curiosità, il problema a sollevare, quando c'era ancora l'analogico, alzare un po' di potenza, ho schiacciato, nessun disturbo, nessun, quelle righettine, niente, non mi è mai successo niente, grazie a Dio. Poi io questo apparato l'ho portato allo spirito su, l'ho fatto riallineare completamente, proprio ho detto non ne voglio sentire di storie strane, e non ho mai avuto niente, grazie a Dio. Poi, non lo so col pace, il pace sono apparati di vecchia generazione, eccetera, eccetera, però io che mi risulta a me non mi ha mai cercato nessuno. E capa, guardi, certo per pace. Come senti? Sì, a voglia. Senti bene? Sì, adesso c'è la pennacchia, cosa hai fatto? La pennacchia c'è. Adesso forse c'era qualcuno avanti, chi vuole fare? No, no, non l'ho mai scattato bene il mic, riprova. Un po' più basso, qua c'è Santiago 9, c'è arrivato il segnale e l'altro è di 9.15, dai. In questo sono Santiago 9? No, questo c'è molto di più, questo c'è 9.15. Ah, e cappa, c'è qualche cosa che non mi convince in questo apparato, No, a livello di segnale sei forte, stai andando bene. Volevo aprire un po' più basso, ma sempre segnali buoni, niente da dire. Ti saluto, non so se ci sia qualcuno, se no vabbè ci risentiamo alle prossime. Ciao ciao, cuoretti da parte mia. Ciao ciao, ciao.